Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Benché fosse così tardi, mio padre non aveva ancora spento la luce. Da quando, a partire dall'estate del 37, era cominciata su tutti i giornali la campagna della razza, lo aveva colpito una forma grave di insonnia, che toccava le punte più acute d'estate, col caldo. Passava intere nottate senza chiudere occhio, un po' leggendo, un po' girando per casa, un po' ascoltando, in tinello, le trasmissioni in lingua italiana delle radio straniere, un po' chiacchierando con la mamma in camera di lei. Se rientravo dopo l'una, era difficile che mi riuscisse di superare il corridoio lungo il quale si susseguivano una dopo l'altra le camere da letto. La prima era quella del papà, la seconda quella della mamma, poi venivano quelle di Ernesto e di Fanny e infine laggiù in fondo la mia, senza che lui se ne accorgesse. Avevo un bel avanzare in punta di piedi, togliermi addirittura le scarpe. L'orecchio finissimo di mio padre percepiva i minimi scricchiolii e fruscii. «Sei tu?» Come era da prevedersi, anche quella notte non ero sfuggito al suo controllo. Di solito il suo «sei tu?» non raggiungeva altro effetto che quello di indurmi ad accelerare il passo. Tiravo dritto senza rispondergli e fingendo di non aver sentito. Ma quella notte no. Pur immaginando, non senza fastidio, il genere di domande alle quali avrei dovuto rispondere, sempre le stesse, da anni, come mai così tardi, sai che ora è, dove sei stato, preferii fermarmi. Socchiuso l'uscio, introdussi il viso nello spiraglio. «Cosa stai a fare lì?» disse subito mio padre, dal letto, sbirciandomi di sopra gli occhiali. «Entra, entra un momento». Più che sdraiato, stava seduto in camicia da notte, appoggiandosi col dorso e con la nuca alla testiera di biondo legno scolpito e coperto non più che fino alla base dello stomaco dal solo lenzuolo. Mi colpì come tutto di lui e attorno a lui fosse bianco, argentei i capelli, pallido e smunto il viso, candidi la camicia da notte, il guanciale dietro le reni, il lenzuolo, il libro posato aperto sul ventre, e come questa bianchezza, una bianchezza da clinica, pensavo, si accordasse alla serenità sorprendente, straordinaria, all'inedita espressione di bontà piena di saggezza che gli illuminava gli occhi chiari. «Che tardi», commentò sorridendo, dando un'occhiata al Rolex da polso, a tenuta d'acqua, da cui non si separava nemmeno a letto. «Lo sai che ora è? 2:27. Per la prima volta, forse, da quando, compiuti i 18 anni, avevo ottenuto la chiave di casa, la frase sacramentale non mi irritò. «Sono stato in giro», dissi quietamente. «Con quel tuo amico di Milano?» «Sì». «Di che cosa si occupa? È ancora studente?» «Ma che studente? Ha già 26 anni. È impiegato. Lavora come chimico alla zona industriale, in uno stabilimento di gomma sintetica della Montecatini. Guarda un po'. E io che pensavo che fosse ancora all'università. Perché non lo inviti mai a cena?» «Ma supponevo che non fosse il caso di dare alla mamma più lavoro di quello che ha già». «No, figurati. Che cosa vuoi che conti? Una scodella di minestra in più è roba da ridere. Portalo, portalo pure. E dove avete cenato? Da Giovanni?» «Sì. Raccontami che cosa avete mangiato di bello». Mi assoggettai di buon grado, non senza essere sorpreso io stesso della mia condiscendenza a elencargli i vari piatti, quelli scelti da me e quelli da malnate. Intanto mi ero seduto. Sentivo che mio padre cercava la maniera più adatta per chiedermi altro. Adesso che mi ero laureato, supponevo stesse per chiedermi, avevo per caso qualche idea, qualche progetto per l'avvenire? Invece divagò nella politica. «Prima che rincasassi», disse, «fra l'una e le due, era riuscito a captare varie stazioni radio estere: Monteceneri, Parigi, Londra e Barominster. Ora, in base appunto alle ultime notizie, lui si era persuaso che la situazione internazionale stesse rapidamente peggiorando. Eh sì, purtroppo. Si trattava di un vero affar negro. Le missioni diplomatiche anglo-francesi a Mosca pareva che fossero ormai sul piede di partenza, senza aver cavato un ragno dal buco, naturalmente. Sarebbero davvero ripartite da Mosca così? Era da temerlo. Dopodiché, non ci sarebbe stato che da raccomandare tutti quanti l'anima a Dio. «Che cosa credi?» esclamò. «Stalin non è mica il tipo da aver tanti scrupoli. Se gli convenisse, sono sicuro che non ci penserebbe un minuto a mettersi d'accordo con Hitler». «Un accordo tra Germania e URSS?» sorrisi debolmente. «No, non ci credo. Non mi sembra possibile». «Staremo a vedere», replicò lui, e anche egli sorrideva. «Che il Signore Iddio ti ascolti». A questo punto, dalla stanza attigua venne un lamento. Mia madre si era svegliata. «Cos'è che hai detto, Ghigo?» chiese. «È morto Hitler?» «Magari», sospirò mio padre. «Dormi, dormi, angelo mio, non agitarti». «Che ora è?» «Quasi le 3. Manda a letto quel figlio». La mamma pronunziò qualche altra parola incomprensibile, poi tacque. Mio padre mi fissò a lungo negli occhi. Quindi, a voce bassa, quasi sussurrando, «Scusa, se mi permetto di parlarti di queste cose», disse, «ma capirai, tanto io quanto tua madre ci siamo benissimo accorti, fin dall'anno scorso, che ti sei innamorato di Nicole Finzi-Contini. È vero, no?» «Sì». «E come vanno adesso i vostri rapporti? Vanno sempre male?» «Peggio di così non potrebbero andare», mormorai d'un tratto, avvertendo con estrema chiarezza che dicevo l'esatta verità, che effettivamente i nostri rapporti non sarebbero potuti andar peggio e che mai, nonostante il parere contrario di malnate, sarei riuscito a risalire la china in fondo alla quale inutilmente annaspavo da mesi. Mio padre emise un sospiro. «Lo so, sono grossi dispiaceri, ma dopo tutto è molto meglio così». Stavo a capochino e non dissi niente. «Sicuro», continuò lui, alzando un poco la voce, «che cosa avresti voluto fare? Fidanzarti?» Anche Nicole, quella sera in camera sua, mi aveva rivolto la stessa domanda. Aveva detto: «Cos'è che avresti preteso? Che ci fidanzassimo, scusa?» Io non avevo fiatato. Non avevo avuto nulla da rispondere. Come adesso riflettevo che non avevo nulla da rispondere nemmeno a mio padre. «Perché no?» feci tuttavia. E lo guardai. Scosse il capo. «Vuoi che non ti capisca?» disse. «Anche a me la ragazza piace. Mi è sempre piaciuta, fin da quando era bambina, che veniva giù al tempio a prendere la berahà da suo padre. Graziosa, anzi bella, perfino troppo magari, intelligente, piena di spirito, ma fidanzarsi», scandì, sgranando gli occhi. «Fidanzarsi, caro mio, vuol dire poi sposarsi. E a questi chiari di luna, senza oltretutto una professione sicura in mano, dimmi tu se...» «Immagino che per mantenere la famiglia tu non avresti puntato né sul mio aiuto, che neanche avrei potuto prestarti, del resto, intendo, nella misura necessaria, né tantomeno su quello suo, di lei. La ragazza avrà indubbiamente una magnifica dote», aggiunse, «altro che se ce l'avrà, però non penso che tu...» «Lascia stare la dote», dissi. «Se ci fossimo voluti bene, che cosa contava la dote?» «Hai ragione», assentì mio padre. «Hai perfettamente ragione. Anche io, quando mi sono fidanzato con la mamma nell'11, non mi curavo di queste cose. Ma i tempi allora erano diversi. Si poteva guardare avanti, al futuro, con una certa serenità. E sebbene il futuro poi non si dimostrò così allegro e facile come noi due ce lo immaginavamo, Ci siamo sposati nel 15, come sai, a guerra iniziata, e subito dopo ho fatto domanda per partire volontario. Era la società a essere diversa, allora. Una società che garantiva... Inoltre io avevo studiato da medico, mentre tu... Mentre io? Ma sì, tu, invece di medicina, hai preferito prendere belle lettere. E sai che, quando è venuto il momento di decidere, io non ti ho ostacolato in nessun modo. La tua passione era quella. E tutti e due, io e te, abbiamo compiuto il nostro dovere. Tu scegliendo la strada che sentivi di dover scegliere e io non impedendotelo. Ma adesso? Anche se, come professore, tu avessi aspirato alla carriera universitaria, accennai col capo di no. Peggio, riprese lui, peggio. È ben vero che niente, anche adesso, può impedirti di continuare a studiare per conto tuo, di continuare a coltivarti per tentare un giorno, se sarà possibile, la carriera ben più difficile e aleatoria dello scrittore, del critico militante tipo Edoardo Scarfoglio, Vincenzo Morello, Ugo Ojetti, oppure, perché no, del romanziere, del sorrise, del poeta, ma appunto per questo, come potevi, alla tua età, che hai appena 23 anni, e tutto ancora da fare davanti a te, come potevi pensare di prender moglie, di metter su famiglia? Parlava del mio futuro letterario, mi dicevo, come di un sogno bello e seducente, ma non traducibile in qualcosa di concreto, di reale. Ne parlava come se io e lui fossimo già morti, ed ora, da un punto fuori dello spazio e del tempo, discorressimo insieme della vita, di tutto ciò che, nel corso delle nostre vite rispettive, sarebbe potuto essere e non era stato. Si sarebbero messi d'accordo? Hitler e Stalin? Mi chiedevo anche. Sì, molto probabilmente Hitler e Stalin si sarebbero messi d'accordo. Ma a parte questo, continuava mio padre, e a parte un mucchio di altre considerazioni, mi permetti di esporti francamente, di darti un consiglio da amico? Di pure. Mi rendo conto che quando uno, specie alla tua età, perde la testa per una ragazza, non sta tanto lì a calcolare. Mi rendo conto anche che il tuo è un carattere un po' speciale, e non credere che 2 anni fa, quando quel disgraziato del dottor Fadigati... Da quando Fadigati era morto, in casa non l'avevamo più nominato. Che cosa c'entrava Fadigati adesso? Lo guardai interrogativamente. Ma sì, lasciami dire, fece lui. Il tuo temperamento, ho l'impressione che tu abbia preso dalla nonna Fanny, il tuo temperamento, sei troppo sensibile, ecco, e così non ti accontenti, vai sempre a cercare... Non finì. Accennava con la mano a mondi ideali, popolati da pure chimere. Comunque, perdonami, riprese, ma anche come famiglia i Finzi Contini non erano adatti, non erano gente per noi. Sposando una ragazza di quel genere là, sono convinto che presto o tardi ti saresti trovato male. Ma sì, sì, insistette, temendo forse qualche mio gesto o parola di protesta. Lo sai pure quale è sempre stata la mia opinione in proposito. È gente diversa. Non sembrano neanche dei Udim. Lo so, Nicole, lei, ti piaceva tanto forse per questo, perché era superiore a noi socialmente, ma... Da retta a me. Meglio che sia andata a finire così. Dice il proverbio. Moglie e buoi dei paesi tuoi. E quella là, nonostante le apparenze, non era dei paesi tuoi, neanche un poco. Avevo chinato di nuovo il capo e mi fissavo le mani posate aperte sui ginocchi. Ti passerà, continuava. Ti passerà. E molto più presto di quanto tu non creda. Certo, mi dispiace. Immagino quello che senti in questo momento. Però un pochino anche ti invidio, sai. Nella vita, se uno vuol capire, capire veramente come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta. E allora, dato che la legge è questa, meglio morire da giovani, quando uno ha ancora tanto tempo davanti a sé per tirarsi su e risuscitare. Capire da vecchi è brutto, molto più brutto. Come si fa? Non c'è tempo per ricominciare da zero. E la nostra generazione ne ha prese talmente tante di cantonate. Ad ogni modo, se Dio benedetto vuole, tu sei così giovane. Tra qualche mese, vedrai, non ti sembrerà neanche vero di essere passato in mezzo a tutto questo. Sarai magari perfino contento. Ti sentirai più ricco, non so, più maturo. Speriamo, mormorai. Sono felice di essermi sfogato, di essermi tolto dallo stomaco questo magone. E adesso un'ultima raccomandazione. Posso? Annuii. Non andarci più a casa loro. Ricomincia a studiare, occupati di qualcosa, mettiti magari a dare delle lezioni private, che sento dire in giro che ce n'è tanta richiesta, e non andarci più. È più da uomo, tra l'altro. Aveva ragione. Tra l'altro, era più da uomo. Proverò, dissi rialzando gli sguardi. Farò di tutto per riuscirci. Così va bene. Guardò l'ora. E adesso va a dormire, soggiunse, che ne hai bisogno. Anche io cercherò di chiudere un momentino gli occhi. Mi levai. Mi chinai su di lui per baciarlo, ma il bacio che ci scambiammo si trasformò in un abbraccio lungo, silenzioso, tenerissimo. Fu così che rinunciai a Nicole. La sera dell'indomani, tenendo fede alla promessa fatta a mio padre, mi astenni dall'andare da Malnate. Il giorno successivo, che era un venerdì, non mi presentai a casa Finzi Contini. Passò in tal modo una settimana, la prima, senza che rivedessi nessuno, né Malnate, né gli altri. Per fortuna non fui cercato durante questo tempo, e tale circostanza sicuramente mi aiutò. Altrimenti è probabile che non avrei resistito, che mi sarei lasciato riafferrare. Una decina di giorni dopo il nostro ultimo incontro, tuttavia, verso il 25 del mese, Malnate mi telefonò. Non era mai successo prima d'allora, e siccome al telefono non ero andato io, fui tentato di fargli dire che non ero in casa. Ma subito mi pentii. Mi sentivo già abbastanza forte, se non per rivederlo, almeno per parlargli. «Stai bene?» esordì. «Mi hai proprio piantato in asso?» «Sono stato via». «Dove? A Firenze? A Roma?» domandò, non senza una punta di ironia. «Questa volta un po' più lontano», risposi, già rincresciuto della frase esageratamente patetica. «Bon, non voglio indagare. Dunque, vogliamo vederci?» Dissi che quella sera non potevo, ma che l'indomani sarei passato quasi di certo da casa sua, alla solita ora. Comunque, non mi aspettasse, aggiunsi, se vedeva che tardavo. In questo caso ci saremmo incontrati direttamente da Giovanni. «Non era da Giovanni che lui sarebbe andato a cena?» «È probabile», confermò secco. «E poi, hai sentito le notizie?» «Ho sentito, sì». «Che casino. Vieni, mi raccomando, che parliamo di tutto». «Allora, arrivederci», feci dolcemente. «Arrivederci», e riagganciò. La sera seguente, appena finito di cenare, mi spinsi in bicicletta fino a un centinaio di metri dal ristorante. Volevo controllare se Malnate ci fosse, non altro. E difatti, dopo aver appurato che effettivamente c'era, sedeva come d'abitudine a un tavolo all'aperto, con addosso l'eterna sahariana color crema. Anziché raggiungerlo, tornai indietro, andando ad appostarmi in cima ad uno dei tre ponti levatoi del castello, quello appunto di fronte a Giovanni. Calcolavo che, in questo modo, avrei potuto osservarlo molto meglio, senza pericolo di essere notato. E così fu. Col petto appoggiato all'altezza del cuore contro lo spigolo di pietra della spalletta, lo osservai a lungo mentre mangiava. Guardavo laggiù, lui, gli altri avventori schierati in fila col muro alle spalle, il veloce andirivieni fra i tavoli dei camerieri in giacca bianca, e mi pareva, sospeso com'ero nel buio, sull'acqua vitrea del fossato, di essere quasi a teatro, spettatore clandestino di una rappresentazione piacevole e insensata. Malnate era ormai alla frutta. Spilluzzicava di malavoglia un grosso grappolo d'uva, un chicco dopo l'altro, e ogni tanto, certo aspettandosi di vedermi arrivare, volgeva vivamente il capo a destra e a sinistra. Nell'atto, le lenti dei suoi grossi occhiali, occhialacci, li chiamava Micol, luccicavano, palpitanti, nervose. Finita l'uva, chiamò con un cenno un cameriere, confabulando un attimo con costui. Credevo che avesse chiesto il conto e già mi preparavo ad andarmene, quando vidi che il cameriere tornava con una tazzina di caffè. Bevve in un solo sorso. Quindi, da una delle due tasche pettorali della sahariana, estrasse qualcosa di molto piccolo, un taccuino, su cui cominciò subito a scrivere a lapis. «Cosa diavolo scriveva?» sorrisi. «Delle poesie anche lui?» E qui lo lasciai, intento a scrivere fittamente sul taccuino, dal quale, a rari intervalli, levava il capo per tornare a guardare a destra e a sinistra, oppure in alto, al cielo stellato, come per cercare ispirazione e idee. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.